Come al solito, se non ha avuto problemi con le parole e le espressioni nuove, continui con la prossima conversazione fra l'impiegato della reception e la cliente. Between the receptionist and the hotel guest. Attenzione! Il numero selezionato è inesistente. Si prega di consultare il servizio informazioni abbonati. Allora, signora, ha capito? Certo che ho capito. Il numero è inesistente. Appunto. Mio marito. Come, scusi? Sì, mio marito. Se il numero è sbagliato, è colpa di mio marito. Sì, certo. Vuole un elenco telefonico? No, non importa. Grazie. Arrivederci, signora.